Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Nei paesi costieri, la primavera arriva dal mare. Ario e Bertola sentirono venire quell'anno da un odore marino penetrante e lieve che si diffondeva nell'aria di marzo, ora tiepida e ora cruda, per tutto il mandracchio. Era un odore come d'alghe e di spume, un odore di mare giovane che presto stordiva. Erano finiti i mesi freddi, la pioggia e la bora. Una nuova estate si avvicinava. Con la primavera il pontone della Virtus, frequentato d'inverno, nelle giornate chiare e senza vento, soltanto da pochi canottieri, quasi tutti anziani, quelli che parlano sempre degli armi e delle regate di un tempo e vengono lì più per chiacchierare sdraiati al sole che per vogare, cominciò a rianimarsi. Riapparivano via via che l'aria si raddolciva i giovani che popolano la canottiera d'estate. Venivano a gruppi, facendo chiasso e scambiandosi manate e spintoni, ed erano già abbronzati, scuri del sole, spiegò Lidia a Berto, preso con gli sci sui campi di neve. La grande novità di quell'anno, per Ario e Berto, fu che in quei giorni comparvero la prima volta alla Virtus, per cominciare a vogare, alcuni ragazzi loro coetanei. Quell'avvenimento li stupì, li scosse e capovolse l'idea che avevano dei canottieri e di sé. I canottieri sinora erano stati per Ario e Berto qualcosa di superiore e non avrebbero saputo neanche immaginare di potere, da un giorno all'altro, mettersi al loro stesso livello per tentare di uguagliarli. I canottieri erano gli adulti, i padroni, e ammirati per di più, e famosi, e loro in confronto, poco più che bambini, e oscuri, servi. Ma ecco che giungevano sul pontone quattro ragazzi della città, e due di essi avevano gli anni di Berto, per cominciare, senza timore e senza vergogna, già sicuri di sé, a remare. Ario e Berto li osservavano sulle prime con ironia. «Guarda», diceva Berto, «quegli insetti che vogliono gareggiare con Eneo». E poi con invidia e anche con ammirazione. «Riusciranno», aveva dichiarato Eneo. «È a quell'età che si deve cominciare. Io, se avessi cominciato come loro, sarei oggi campione del mondo». E infine, con l'ansia di emularli e di superarli. C'era, nella rimessa, una vecchia aiole a due senza timone che i soci sdegnavano perché era meno leggera delle altre e mostrava i fianchi diversi rattoppi. Con quella, un mattino, quando la canottiera era ancora deserta e nessuno poteva vederli, Berto e Ario, che i giorni precedenti si erano allenati con la voga, si arrischiarono a uscir fuori del mandracchio, avventurandosi oltre la lanterna. Partendo, stentarono a trovare i movimenti giusti, ad affondare e a ritrarre simultaneamente i remi, e il carrello, specialmente, scivolava via a ogni vogata, non appena il remo toccava l'acqua. Ma al ritorno andavano già bene e veloci. Rientrarono ebbri in cuore, con gli occhi sfavillanti, esausti ma felici. Evitando di farsi scoprire, Berto, come figlio del custode della Virtus, temeva di non poter usare le imbarcazioni che erano riservate ai soci, continuarono ad allenarsi ogni settimana con gusto crescente. Cominciavano a sentirsi uomini, ora. I muscoli balzavano e si snodavano, sempre più esercitati. Era bello toccarseli al ritorno, sulle cosce, sulle braccia, sul petto. Se li tastavano e se li provavano a vicenda, orgogliosi di quello sviluppo, acceso ognuno dalla brama di farsi atletico, di soverchiare presto l'altro. Guardavano, beffardi, i ragazzi che montavano nelle barche a vela, sport da signorine. Anche Lidia la trattavano con scherno. La guardavano adesso con distacco, con superiorità. Avevano l'impressione che ella fosse rimasta in qualche modo indietro, che non comprendesse qualcosa che loro sentivano, anzi, vivevano già, e la disprezzavano, come disprezzavano le sue amiche e il cine. Passavano per i ballatoi in calzoncini e sandali da canottiere e spesso si gettavano sulle spalle distrattamente un asciugamano. Durante le ore di tregua, quando la canottiera restava deserta e non avevano niente da fare, si stendevano al sole sulla zattera, seri, quasi severi. Si contemplavano ora le cosce, ora le spalle, le braccia e si spiavano l'un l'altro. Talvolta si attardavano dentro, tra i cavalletti che si alzavano, doppi, tripli, sino al soffitto. Respiravano con piacere l'odore che penetrava tutta la rimessa e dopo un po' andava al capo, quasi con una lieve vertigine. Un odore blando e acuto di iole verniciata e di mare e di sudore d'atleti. «Odore di sport», diceva Berto. Ario era contento che sua madre continuasse a occuparsi del pontone e delle barche. Così egli poteva, anche quest'anno, starsene quasi sempre lì alla Virtus e aiutare i canottieri, anziché i padroni delle barche a vela. Tuttavia, a vederla saltare dentro e fuori dalle imbarcazioni e girare per la zattera e per i ballatoi e curvarsi sugli ormeggi e portare timoni e paglioli, sentiva crescere un'inquietudine. «Perché non sta un po' ferma?» si chiedeva. «Non può tornare in casa. C'è bisogno che si dia tanto da fare». E lo infastidivano anche quei suoi calzoni. Quell'inquietudine crebbe quando gli parve di accorgersi che sua madre, mentre lavorava a quel modo sul pontone, guardasse di sottecchi verso la Virtus. La scoperse poi sempre più spesso. Sì, guardava là, intenta. Ma appena si accorgeva di essere notata, riportava gli occhi a ciò che stava facendo e si sbrigava. Eneo, quell'anno, si era fatto più chiuso. Sembrava più superbo o più preoccupato di sé e si fermava raramente a discorrere. Ario, tuttavia, mentre Berto era fuori al timone di qualche iole, anche questo lo divertiva e spesso i canottieri lo chiamavano a bordo, ebbe occasione di stare a lungo con lui. Lo trovò un giorno lì sulla zattera in un'attitudine in cui non l'aveva mai visto. Seduto e spettinato, curvo sopra un settimanale che teneva tutto aperto reggendolo ai margini con le mani chiuse a pugno. Sentendo il passo di Ario, alzò una faccia torbida e due occhi tra rimescolati e ottusi. Sembrava insonnolito e insieme irato. «Questo, vedi, ha avuto fortuna, sua madre puttana!» esclamò e mosse il pugno a indicargli sul giornale un volto di divo in primo piano. Era un giovane dai lineamenti forti e simpatici, dalla fronte bassa, dalle narici larghe, dai capelli neri lustri di brillantina, e sorrideva con le labbra grosse mostrando tutta la dentatura. «È uno sportivo», spiegò, «che ha avuto più fortuna di me. Faceva il pugile in America, ma poi ha smesso perché una miliardaria lo manteneva. Una donna magnifica, di quelle che ci sono laggiù. E ha fatto becco il marito con lui. Il terzo o il quarto marito. E lui le faceva le corna con tutte. E lei delirava, dicono, e voleva sposarlo. Poi si sono lasciati perché a lui non gliene importava niente. E ha fatto ancora più fortuna. È diventato divo del cine. Ed è di nuovo carico di milioni. E tutti gli stanno attorno. Questa sì che è vita», concluse, agitando il pugno sopra il giornale. Di sera, Ario lo aveva visto qualche volta con Lidia. Non uscivano dalla canottiera assieme. Eneo, dopo l'allenamento sull'imbrunire, se ne andava solo con la sua andatura dondolante, stringendo sotto l'ascella il rotolo delle mutandine e dell'asciugamano. E Lidia era già ferma ad attenderlo, Ario se n'era accorto, più in là, alla radice del molo, oltre la garitta della guardia di finanza. Attendeva, dandosi l'aria di guardare in giro, e a momenti pareva si nascondesse dietro la garitta. «È ancora permalosa?» aveva domandato Ario mesi innanzi. «Permalosa?» lo aveva fulminato Berto con un'occhiata. «Di piuttosto che è diventata impossibile. e aveva alzato la spalla come per significare che non valeva la pena di darle bada. Quell'inverno un marinaio si era presentato un giorno alla Virtus ed era giunto sino in cucina, mentre lei si trovava come il solito chissà dove, e aveva domandato se abitava lì la signorina Lidia. Bertolo raccontò subito a Dario e gli raccontò che Lidia riceveva anche lettere e cartoline e la burlarono assieme per un pezzo chiamandola signorina. Da qualche tempo aveva cominciato a occuparsi di lei anche la madre di Ario. La seguiva ininterrottamente con gli occhi nei pochi momenti che stava sulla canottiera e l'accompagnava ogni volta con lo sguardo a lungo quando usciva. «Diventerà Troia», disse un giorno. Ario si sentì arrossire violentemente, ma tacque. Notò, da allora in poi, che sua madre, che appariva smagrita e con gli occhi accesi, non cessava più di occuparsi di Lidia. Non le parlava mai, ma la seguiva e la scrutava, quasi cupa dal suo pontone. Un pomeriggio Ario la vide salire su per scale e ballatoi sino al terrazzo in cima alla canottiera e osservare di là, inquieta, Lidia che stava uscendo. La seguì con l'occhio, portandosi la mano alla fronte, sinché quella scomparve dietro le alberature dei velieri e i cumuli di mattoni e di legname che erano sulla riva. Perché osservava Lidia a quel modo? Perché la spiava? Un impeto lo colse: salire, affrontare sua madre, chiederle. In quel momento si incontrarono, sostennero l'uno lo sguardo dell'altra e Ario arrossì di colpo. «Diventerà Troia», si limitò a mormorare la donna, quasi gli avesse letto nel pensiero, e fece per passare oltre. Ario si sentì di fuoco e gli parve che qualcosa lo stringesse alla gola. «Perché?» la provocò fermandosi e la voce gli uscì bassa e roca. La donna lo scansò e passò oltre senza guardarlo. «A vivere sui pontoni», mormorò alzando la spalla, «si finisce Troie». Che suo padre avrebbe dovuto essere più severo con Lidia lo diceva anche Berto, e a lui lo aveva detto un cugino che l'aveva persino schiaffeggiata in strada. Ma da quello straccio d'uomo, da quando, rincasando una notte ubriaco, era precipitato dalla passerella in acqua di dove l'avevano tratto due chioggiotti di un bragozzo vicino, non c'era da aspettarsi più nulla. Di notte beveva e di giorno dormiva. Le cose quell'anno erano a questo punto, allorché cominciarono a verificarsi alcuni fatti che sconvolsero Ario. Sua madre, che aveva sempre quell'aria strana, come se un'inquietudine la divorasse dentro, gli parve una domenica sera più cupa e nervosa del solito. Dopo cena aveva ingoiato pochi bocconi freddi, lasciando nel piatto alcune sardelle per Ario. Tornò in fretta fuori, sulla zattera. Ario, che restò alzato perché non si sentiva stanco e anche perché un orgasmo oscuro lo spingeva a seguirla, a spiarla, la vide seduta a lungo lì fuori. Stava immobile, col mento tra le mani e gli occhi fissi al molo, anzi, a un lampione che rischiarava un largo tratto davanti alla passerella della Virtus. Guardava lì, ininterrottamente, e a volte, quando una figura entrava nel cerchio di luce, trasaliva facendo l'atto di alzarsi. Quanto tempo trascorse? Ario, che la spiava come da un antro dal buio dello stanzone degli attrezzi, accoccolato sopra un barile, sentì spegnersi a poco sulle rive nel mandracchio ogni rumore. Risuonava soltanto di tratto in tratto qualche risata, stranamente alta in quel silenzio, in ottamboli del reale circolo nautico, i viennesi. Stette lì, immobile, e vedeva ogni tanto riapparire nella luce della lanterna antenne, sarti e casseri sempre uguali e l'alta ombra informe di un cavafango. A un certo punto scorse la donna alzarsi. si diresse rapida verso il ballatoio di sinistra. Scomparve. Col fiato in gola e in petto un'emozione strana che a momenti gli tratteneva e a momenti gli accelerava i battiti del cuore, Ario uscì in punta di piedi sulla zattera. Si guardò intorno, scrutò nel buio, ma non la vide più. Scorse invece, nella luce diffusa dal lampione davanti alla passerella della Virtus, due figure. Riconobbe di colpo, e il cuore gli affrettò i battiti, Lidia, con le gambe nude tutte illuminate in uno dei suoi vestitini lievi. L'altro, ma non stette a guardarlo, era un uomo. Sapeva, sentiva già chi poteva essere. Ma dov'era sua madre? Che stava per fare? D'istinto, e nella corsa sentiva il sangue alle tempie, infilò il ballatoio di destra, poi la scaletta che portava al terrazzo sul tetto. Non era quasi giunto che scorse ed ebbe un tuffo al capo e si arrestò, si irrigidì. Sua madre, ritta immobile all'altro capo del terrazzo, in cima alla scaletta di sinistra. Non lo vide, non lo udì. Gli voltava le spalle e guardava giù verso quelle due figure. Ario si ritrasse e si abbassò per non essere scoperto, accucciandosi sugli ultimi gradini. Non vedeva più nulla, tranne l'alta figura immobile. Gli apparivano invece, dall'altra parte, all'imboccatura del mandracchio, due luci, l'una rossa e l'altra verde, che si accendevano e si spegnevano senza sosta, riflettendosi sulle acque nere e luccicanti. E udiva, da ogni lato nell'oscurità, sopra il lambire quieto del mare, scricchiolii, ora lunghi e ora brevi, le alberature dei velieri, dei bragozzi, delle barche, vive nella notte, e a tratti il cigolare degli ormeggi. Non sapeva perché stesse là, rannicchiato, fermo a respirare nella notte l'aria densa del mandracchio, ma rimaneva. E gli piaceva non pensare più a nulla, sebbene sentisse ancora un'inquietudine che gli faceva spiare ogni tanto sua madre. Ella sedeva, adesso, sopra una panchetta vicino alla balaustra e guardava sempre giù. Ario si riscosse soltanto quando si levò da un trabaccolo l'abbaio di un cane. Si voltò a spiare di nuovo sua madre e si sentì cogliere dall'ansia e dall'orgasmo di prima. La donna la rivide un istante, come di giorno, nella luce della lanterna, era sempre lì, ferma sulla panchetta, e guardava giù. «Possibile che siano ancora lì sotto?» si chiese, e scese per vedere scalette e ballatoi. No, il lampione illuminava, gaio e tiepido nella notte, tutto vivo di un alone di moscerini, soltanto il lastrico del molo. «Forse si sono lasciati in questo momento», pensò, «mentre io scendevo». Immaginava Lidia varcare la passerella ed Eneo andarsene. Se è così, la mamma verrà giù e rientrerà. No, non scendeva. Dal ballatoio di sinistra, ove si era fermato, distingueva in alto, nello stesso punto e nella stessa posizione, quell'ombra. Ma che attende? Che fa? Si chiese e risalì cauto. La donna era sempre là, guardava come in attesa verso il lampione. Ario tornò a rannicchiarsi sugli ultimi gradini. Non sapeva nemmeno lui perché si ostinasse a sorvegliarla a quel modo, ma gli pareva di dover continuare, di dover restare lì, come per un impegno. Lo coglieva adesso la stanchezza che non aveva sentito prima. Cullato dallo sciabordio blando dell'acqua e dagli scricchiolii e dai cigolii che si alzavano or qua or là da tutto il mandracchio, le palpebre cominciarono a pesargli e stentava a reggere il capo. «Sarà meglio che scenda e vada a letto», pensò riaprendo gli occhi e rivedendo la donna sempre ferma sulla panchetta, «altrimenti mi addormento. Scende prima lei e resto chiuso fuori». Coricatosi, prese sonno di colpo. Quando si destò, la lampadina al soffitto era ancora accesa e il letto di sua madre, al di là della rastrelliera, appariva vuoto e intatto. La udì rientrare molto più tardi, quando era piombato nel secondo sonno, da cui non riuscì a riemergere, e gli parve che ormai fosse giorno. Quella che abbiamo ascoltato è la nona puntata di L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini, letto da Ferdinando Bruni. Il ciclo di Ad alta voce è stato realizzato da Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, alla regia Luigi Iavarone, che cura anche le musiche. In questa puntata, Concrete Sleepers dei Contriva, delle interpolazioni da Get the Point di My Morning Jacket e poi Kite Center di John Metcalf e On the Nature of Daylight di Max Richter. Vi ricordo che tutte le puntate di Ad alta voce sono riascoltabili sul nuovo sito raiplayradio.it. E torniamo al nostro Ivan Graziani Doc del 1976. Il primo album di grande successo di Graziani si intitolava Ballata per quattro stagioni. La canzone che ascoltiamo però è ripresa in realtà da un album precedente, La città che io vorrei, ed è inserita appunto in Ballata per quattro stagioni. Si intitola Il campo della fiera. Ogni sabato mattina a mezzogiorno di gente un'uccelliera vacche, zingari e persone colorate sul campo della fiera. Compra giocattoli di latta e c'è chi vende il gallo. C'è chi vende tegami e reggipetti fra porci di corallo. Sabato sul campo della fiera, all'ora della pasta. Gli spazzini e la polvere bianca, terminata è la festa. Ed io lo storpio sul